Cazzo, come mi ascolti? Cioè lei come ripetitivo già. Io. Aspetta. Ola. 1, 2, 3. Ola. Ola, aspetta. Devo controllare, non mi ricordo più dove le do problemi. Ola. 1, 2, 3, prova, cambio. Così va bene? Anzi. Ehi, stavo mettendo l'acqua sul fornello, me. Ah, rimane da giù già avanti, vai Shiva. Non ti sei fatto... Non hai risposto. Stavo lavorando. E dove? Secondo te dove? Ecco già in giù. Avanti, posso vedere. Andava, aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attenzione, binario 10, cambio. Attenzione, sul canale 10, se c'è qualcuno, cambio. Capri, stiamo rispondendo noi. Cosa dici? Non te lo giurare. Ma lo microfono azzurro si ha pigliato. Allora. Fra poco ti dà vantaggio. Cappa. Ma sei macchina, sei. Ehi. Cazzo, sei la pomoscala, no? Che dici? Al quadrato. Cazzo, non mi ha segnare. Al quadrato. Sono andato a comprarmi una pomata per i dolori, se no non sei riuscito stamattina. Aio, fai la pasta. E anche. Questo apparato funge. Gabriele, attenzione Gabriele, stai facendo tutto fischi. Cos'è attaccato? Ma non c'è bisogno di attaccare, arrivi fondo scala qua. Ma che attaccato, non ci sono attaccati i fili. Sei già attaccato, sei fondo scala. L'elicottero mi dà un po' di fumbi. Aspetta, ora, quella deve essere la migliore ora. Porca miseria. Mi gira in balla e c'è la radio. Quale? Ma che problema a cambiare il microfono? Ora, va bene adesso? Cappa. Capo, un bel forte la modulazione. Già va bene, dai. È buono. Cappa, capo. Aspetta, per qua! Di tutti i colori. Pittino è un capo di fuma. Cappa. Aspetta, buono scatto rimango lì. Sicuramente è una buona posizione per te. Pure cosa le fanno uguale. Scappa. La differenza è che sono in macchina. E tu sei con l'antenna a mano. Ma questa antenna, questa antenna che ho io funge forte. Scappa. Adesso già funziona bene. Già compariamo alla succede. Io non ho problemi, perché cazzo la macchina sento un bene. Ho la posizione che ho, non lo so, però c'è una buona ricezione. Dimmi. Adesso sono in mezzo a parà. Come mi ascolti? C'è calato un po' nuovamente. Ma già va bene. Già. Penso che tu mi senta sempre. Gabri, vieni qua. Mamma mia. Come c'è il disegno già? Vieni mattata. Ma stai uscendo un po' per macchiette, stai uscendo, come mai? Cosa? Un po' per macchiette stai uscendo. A per macchiette, guarda adesso perché devo regolare l'eco. No, esista. Non devo regolare nulla, ma assolutamente niente, aspetta un attimo. Vado a avviarlo un culo. Ok. Prova ora. Anto, sei tu, stai uscendo tu da fischi. Perché ho sbagliato l'ingresso. Prova ora. Ehi, guarda, dai. Oh, io sto uscendo bene perché ci ho fatto l'ascolta e mi sente. No, non eri tu. Era cosa, come si dice? La colonia di questo apparecchio che ti odiava. Ho dovuto mettere quella esterna, capito? E cos'è la tua bagnata? Comunque era sopra la gamba, mi ascolti bene? Benissimo. Cioè, non lo so, la bocca ma ce l'ho sulla gamba, per non farmi vedere parlando, capito? Ciao, che zona sei? Adesso sono via Marra. Certo, benissimo. Cavagava, vabbè. Ci afferro perché così almeno mi regolo e non lo tengo in bocca, vicino alla bocca. Chiamo. Mo prendo il ponte nuovo e vado a casa. Cavagava. No, ma io tutta la città arrivo bene perché abbiamo già fatto le prove. E da qua come mi ascolti dal Ponte Nuovo? Fondo scala. Ma penso che la cosa sia reciproca. Già va bene allora. Filatela anche tu questa antenna. Già ce l'ho. Come viene a guagliare i bunnini, non preso. Non mettere l'antenna. Domani sono a Cagliari. Ehi, questa qua non è che costava tanto, quando l'ho presa costava 38 euro mi pare. L'ho ordinata da fuori però dalla Russia mi pare. Perché? Che antenna è? Cosa? Che antenna è? A dirtelo, c'è una sigla tu. Non me lo ricordo adesso. Ha una sigla. Poi già te la mando su internet. Ce n'erano qua, non è italiana. No, questa qui è un'antenna polacca, mi pare. Mi pare che sia polacca come costruzione. Ciao. Ma va bene, da tutte le parti mi sento. Sono una cazzata, non costa 60 euro, 70 euro. Comunque è buona, se funziona bene, io ti sento sempre forte. Sì, va bene, poi non da stazionarie, la piazza è già pronta. Ah, vero? Allora, aveva 1 euro di stazionario. funzionare da quando l'ho messa. Sale massimo 1 e 2. Ma cos'è una buona antenna? Come lunga? No, 1,60 m. Ma è poco, no? Ma è sempre meglio di 1,80 m, già. Sì, quello sì. Grazie, bene, bene qua. È minore 2. È minore 2. Sta crescendo, mio, come alto. Io non credo che cresca tu. Normale che cresca, poi adesso cresce una vista d'occhio. Un giorno fa, già facendo 4 anni. È un armadio. Pizza e babbo, Ciao Gianni, ti vergogni? Non terminare il gioco. È a Pomoscala, sì. Capo, anzi sì, in Napoli, nel Barberello. Sì, in alto, a casa tua, sono proprio a casa tua. Che cazzo? Se mi arrivi qua, tu arrivi a casa, mi ha detto. Cappa. La propria parecchia mi arriva per un bel porto. Buona già, non ti posso dire di contrario, è un'antenna buona, buona veramente. Sicuro che ti costruita bene. Yeah,